5B. Ascolta e trasforma. Siediti, non sederti. Muoviti. Non muoverti. Mettiti a studiare. Non metterti a studiare. Copriti. Non coprirti. Serviti. Non servirti. Stupisciti. Non stupirti. Pulisciti. Non pulirti.